Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Anche oggi non ritroviamo il presidente Carlo Garofolini, che ormai siamo veramente abituati a sentire tutto l'anno, ma troviamo di nuovo con noi Gianluca Codognato. Benvenuto Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, siamo nel periodo di settembre, quindi a settembre chi ha dei figli lo sa, ricominciano le scuole. Sì, lo sanno benissimo, perché ovviamente come ogni settembre, oltre a vari pagamenti di ogni tipo, arriva la batosta, diciamo, del caro libri, che riguarda chiaramente famiglie che hanno figli appunto in età scolastica. E niente, noi come Adico, come ogni anno, abbiamo monitorato un po' la situazione, riscontrando chiaramente che, al di là dei rincari, che in realtà poi sono minimi, comunque la batosta per le famiglie resta intatta. Sì, perché ricordiamo, insomma, chi va alle elementari i libri li passa alla scuola, ma dopo cambia tutto, dalle medie in poi bisogna comprare i libri di testo, e ogni anno questi libri di testo, nonostante, ricordo, c'erano state delle leggi che dovevano un po' regolamentare il cambio dei libri, mi pare di capire che si va a toccare il portafoglio delle famiglie di 300, 400 o anche di più euro a testa, no? Diciamo che si può arrivare tranquillamente anche sui 500, soprattutto, diciamo, i più svantaggiati, tra virgolette, sono quei genitori che iscrivono i figli alla quarta ginnasio, quindi al primo anno del liceo classico, perché oltre alla spesa di 300 euro, all'incirca 310 euro, bisogna aggiungere almeno un altri 160 euro di vocabolario, di greco e di latino. È una bella spesa. Diciamo che quindi, per chi iscrive i figli al primo anno, è la mazzata più grande, perché bene o male negli altri anni almeno alcuni libri sono già in uso dagli anni precedenti, quindi un po' la spesa si riduce. Resta il fatto che noi purtroppo constatiamo che c'è ancora questa abitudine di introdurre le nuove edizioni ogni anno, 4, 5, 6 libri completamente nuovi, magari cambiano due pagine, ma questo impedisce chiaramente di poter usufruire del mercato dell'usato, ecco, del mercato dello scambio. Questo per noi continua ad essere scandaloso nel 2015, insomma. Certo, mercato che comunque in qualche modo funziona, no? Quello dell'usato, ci sono ancora mercatini che si allestiscono nelle vicinanze delle scuole, magari in certi comuni, insomma, si agevola anche questo. Sì, mercati floridi, per fortuna, appunto, come dicevi te Francesco, ci sono dei comuni che proprio facilitano questo tipo di scambio, ricordo il comune di Venezia per esempio, ma tanti altri. Poi chiaramente c'è lo scambio che viene fatto all'esterno delle scuole, è anche un momento di divertente, diciamo, no? di scambio tra gli studenti, anche di scambio di informazioni. Peccato appunto che troppe volte le scuole, appunto, con queste nuove adozioni impediscano proprio di fatto la possibilità di acquistare libri usati, ecco, cambiare libri usati. Ti dico una cosa, Gianluca, io parlavo per caso con un elettrauto che ripara automobili, mi diceva: sai, il periodo più brutto è quando iniziano le scuole, perché ci sono le famiglie che si trovano con questo groppo della spesa dei libri da affrontare, e quindi ho visto negli anni sempre un calo incredibile delle commesse di lavoro in questo periodo. Beh, guarda, Francesco, settembre è un mese difficile. Io sto anche pensando a questo, ma già qualcuno l'avrà visto propriamente già ad agosto, ma anche sarà anche, secondo me, una grossa mazzata a causa del caldo che ha fatto utilizzare tantissimo, per esempio, i condizionatori. Sì. Per cui mi aspetto che, ad esempio, a dispetto dell'altra estate, a settembre ci sarà anche una bella bolletta dell'energia elettrica. E insomma, diciamo che settembre non è un gran mese per le famiglie, non lo è fino alla fine dell'anno, perché poi sappiamo che ci sono pagamenti di ogni genere, e purtroppo la spesa per i libri è una spesa rilevante. E ricordiamo, Francesco, che c'è anche la spesa del kit scolastico, sì, che non è da poco, e là noi, il nostro consiglio, il consiglio che dà sempre anche il nostro presidente, sì, di evitare di seguire i capricci dei figli che vorrebbero tutte cose firmate, griffate, però veramente quello che possono costare anche, sono articoli che possono costare il doppio, il triplo rispetto a un articolo non griffato che alla fine ha lo stesso identico valore. Quindi dallo zaino a, a immagino ai diari. Il diario, i quaderni. Non ne parliamo, però. Non ne parliamo. Però ecco, sì, insomma, se vogliamo risparmiare partiamo anche da lì. Ecco, quindi insomma, prudenza negli acquisti, fatelo, cercate in giro perché ci sono delle offerte, ci sono dei buoni zaini che non sono griffati e che sono comunque fatti bene, insomma, resistono al peso della cultura. Ma sono fatti benissimo, Francesco, Dopo si sa che però la televisione fa la sua parte, quindi certo, possiamo anche capire il capriccio, però insomma, se vogliamo evitare di spendere 500 euro, appunto, aggiungendoci 100 euro di zainetto e di aria, insomma, si può fare tranquillamente senza perderci nulla. Va bene, va bene. Teniamo a mente questa cosa, cerchiamo quindi di muoverci per tempo, per cercare se c'è la possibilità di comprarsi i libri usati, dove si può, dove è possibile, sfruttando questi mercatini che ci sono in giro. La rete in questo dà un grande aiuto, quindi invitiamo gli amici a farlo e ringrazio l'Adico per questi consigli sempre utili con la voce di Gianluca Codognato, che penso ritroveremo tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e buona giornata. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.